niente, cuffetta, cosa ci fa a chiederci? Dove? Dove? Io penso che dovrei ritornare comunque. Sto chiamando, avanti Giovanni, come non mi senti, caspita non mi senti, mi sentono tutti, avanti Giovanni, attenzione Giovanni, e Giovanni a cambio, 23, a chi? A me senti adesso? Adesso ti ho sentito forte anche, Marino, ma mi senti? 1, 2, 3, prova, avanti Marino, mi senti? Certo, tu mi senti Giovanni? Io lo sento a te, e vedi cosa succede, succede questo particolare, invece con gli altri è tutto diverso, capito? Mi arrivi sparato, mi arrivi. Marino! Avanti Tore, mi senti? Sì. Attenzione Marino! Mi senti Tore? Tore, io ti sento a te, ma a Marino non lo sento, Tore, mi senti? Marino! Attenzione Tore! Non ti sente Marino, non ti sente. E tu mi senti, ma chi? Ma chi, Gio, mi senti? Forte e chiaro, ti sento. Vedi, a Bacchino lo sento ugualmente, anche se è più basso di Tore, però lo sento a metà, però Marino non lo sento, Questo è il portatile che sto usando, vuol dire che già sta uscendo. Attento, Marino! Sì. Attenzione, Marino! Sì. Attenzione, Gio Maria! Forse si è inceppato, Marino. Adesso sto usando l'altro, sto usando. Ma chi, Gio? Quello là non mi senti, comunque mi sente Bacchisio e Tore. Allora li sento, tutti e due, ma te con quell'altro non li sento. Ecco, tutto lì. Maria, evidentemente c'è qualche cosa in qualche apparecchio, sia il mio che il tuo. Perché tu qui arrivi sparato, arrivi. So, io quello lì, a me mi sente anche Antonello e anche tutti gli altri mi sentono, con quello lì. Marino, ma ascolti a me. Questi apparecchi, certi, fanno pietà, per carità. Ma chi? Ehi, che separati. Ma se sia una mosca davanti non passa più. E allora, per carità, vai con prendi di due, Tore! A Giammarì, io già ti ascolto. A Marino e a Bacchisio ascolto bene. Sono con l'antenna esterna. Ciao, sto arrivando, Tore. Ma ascolti però. Guarda Marino, mi ascolti? Guarda se mi stai ascoltando adesso. Certo, forse è chiaro. Gio Maria forse se non mi ascolta. Gio Maria, tu non mi ascolti, no? Ci sento già. Mi senti anche questo? Ho cambiato antenna. Ho cambiato antenna, capito? Ho messo un antennino più piccolo. Sei fortissimo, sei a fondo scala, per cui a voglia, ti sento benissimo. Bene, vuol dire che non dico bene. Perché era un po' di tempo che non accendevo questa antenna qua. E già c'è ancora, sì, sto guardando se c'era sul tetto, già c'è. Avanti, si otto. Avanti, molto, mi ascolti adesso, ma chi? Sempre ti ascolto. Ma chi sono? Via, Marino, dimmi. Attento, Marino, sparito sei. Marino, guarda che ti sta chiamando. Ma con chi siete? Passate la 27, dai. Via 27, vai. Ebbene, c'è qualche cosa che non va, ma forse è causa delle antenne, perché magari con l'antennino suo ricevi, però con l'antenna esterna non va. Non mi piace. La questione è strana, sì. Vabbè. Ma oggi mattina mi ricordo. Illu!